E apri gli occhi tanto, non puoi sognare, il tuo passato è chi non c'è più. Peccato che il balcone non ha più fiori, se non nei miei capelli li metterei e sarei bello come lei. E un po' la scorderei e invece piano dico no. No, oh, stasera io dovrei prostituirmi, uscire con un'altra te, ballare come un orso e divertirmi, invece li ho lasciati tutti là in pizzeria. Non ho più 20 anni senza te e camminando dico no, no. Quando tornerai non ti spogliare, perché anche un uomo solo può dir di no. E fuori della porta, vestita d'aria, a piangere e pregare io ti lascerò. Essere bella non ti dà diritto di far male, col sale in bocca ti dirò no, no, no, no. Apertamente ai pacchi di riviste che hai lasciato tu, al modo di guardare un altro e non dir niente. Sarò anche maschilista ma non ne posso più. Ho mani forti e dolce anch'io, ma del mio sesso non ne faccio un dio. Vorrei vederti e dirti no, no, no.